Benvenuti alla terza lezione nel corso di Mishnah, il nuovo corso di Mishnah del Kollel Torah. Le prime due puntate sono state un'ampia introduzione, potrebbero essere ancora più ampie, però un'ampia introduzione relativamente alla struttura della Mishnah, ai contenuti della Mishnah, ai modi in cui la Mishnah arriva alle sue conclusioni, le fonti della Mishnah e così via. Un po' abbiamo visto la storia della Mishnah, ora arriviamo alla Mishnah stessa. Iniziamo a studiare la Mishnah e quello che faremo in questo corso è che sceglieremo un capitolo da ognuno dei sei ordini, sei sedarim della Mishnah. Abbiamo descritto nella scorsa puntata quali sono i sei ordini della Mishnah e così facendo cercheremo di entrare un pochino nel mondo della Torah Shebeal Peh, il mondo della Torah orale, per capire anche la l'ampiezza, se si può dire, quanto è vasto l'elenco delle tematiche che vengono trattate dalla Mishnah, sia nei tipi di contenuti diversi che nei dettagli all'interno di ogni tipo di contenuto. Ora quindi, come dicevo, sceglieremo un capitolo tratto da uno dei sei ordini della Mishnah, e lo approfondiremo insieme. Cercheremo, facendo questo, non solamente di capire cosa ci sta dicendo la Mishnah, tradurre e capire il senso del specifico brano della Mishnah che stiamo studiando, ma anche di capire le logiche, di capire i temi generali e i concetti sui quali ci si basa nella Mishnah per arrivare a determinate conclusioni, e chiaramente chiarendo, strada facendo, anche le basi della Mishnah specifica che affronteremo. Oggi apriremo la Mishnah di il Seder di Nezikin, che è quello che Nezikin vuol dire, vi ricordate, danni, è l'ordine della Mishnah che tratta tutti i discorsi che avvengono tra uomo e uomo, problematiche eventuali legate a questioni legali, questioni legate al commercio, questioni legate ad eventuali danni, questioni legate a comportamenti appositamente che danneggiano un'altra persona. E in questo caso specifico l'ordine in generale parla anche del giudizio, di come si puniscono eventuali sanzioni, pagamenti o altri tipi di conseguenze che ci possono essere. Nel trattato specifico che noi apriremo oggi è il trattato di Bava Metzia. Ora, le parole Bava Metzia significano la porta mezzana. A cosa ci si riferisce? Abbiamo nell'ordine di Nezikin tre trattati molto importanti, nel senso della loro la quantità di materiale. Tutti i trattati sono importanti, chiaramente, e che in origine si dice che, molte fonti dicono che in origine formavano un solo trattato, che poi è stato suddiviso in tre per questioni di comodità, se no sarebbe stato veramente molto molto lungo. E quindi, essendo stato suddiviso in tre, i nomi di questi trattati sono semplicemente Bava Kama, Bava Metzia e Bava Batra. Prima porta, mezza porta mezzana, seconda porta, scusate, e Bava Batra, l'ultima porta. E il discorso di cui parleremo è un discorso comunque legato a un problema economico. Ora, i problemi economici, liti o disaccordi basati su problemi economici possono essere frutto di moltissime situazioni diverse. Si può parlare di un problema che è legato a un'eredità, si può parlare di un problema legato a una società o la dissoluzione di una società, si può parlare di rapporti tra datori di lavoro e chi lavora, si può parlare di rapporti tra debitori e creditori, si può parlare di questioni legate ad assicurazioni, a questioni bancarie, noleggi, commercio, vendita, oggetti smarriti. C'è una lunga lista di questioni che possono entrare in problemi di questo tipo. La Mishnah tratta tutti questi tipi di problemi e nel caso specifico questo trattato qui di Bava Metzia parla di problemi che non sono un danno, cioè una persona ha danneggiato il bene di un altro, dove obiettivamente noi possiamo vedere il danno e dobbiamo capire la situazione e come agire davanti alla situazione. Parliamo in questo trattato più che altro di prospettive diverse su una determinata situazione e il Dayan, il giudice del Beit Din, che deve applicare la regola della Halakha in base a ciò che viene detto dalle due parti davanti al Beit Din, davanti al tribunale rabbinico. E, di nuovo, non a causa di un danno, ma a causa di altre situazioni, come per esempio oggetti smarriti, dove due persone diverse potrebbero dire l'oggetto appartiene a me, depositi, dove una persona affida ad un'altra persona un oggetto, un bene, e poi succede qualcosa, acquisti, noleggio, anche come si chiama, halvaot, cioè debiti, prestiti, scusate. Tutto questo è trattato in questo e altro, viene trattato nel nostro trattato, nella Masechet di Bava Metzia. Ora, quando noi dobbiamo far finta nel leggere queste Mishnayot, non che stiamo leggendo un caso che viene descritto, ma che come se fossimo noi il giudice davanti al quale viene posto il problema. Perché noi qui sentiremo le due parti e vedremo come bisogna affrontare il problema e come si arrivano o a quali conclusioni bisogna arrivare. Eventualmente cercheremo di capire come si arriva a queste, come arriviamo a queste conclusioni. Quindi noi leggiamo un caso, non sappiamo ciò che è avvenuto realmente, nel senso non stiamo aprendo una finestra sulla casistica, stiamo aprendo una finestra su ciò che viene detto davanti al tribunale, che ovviamente può essere diverso. Ora inizieremo a studiare una Mishnah, ovviamente in un perek, in un capitolo che è tratto dal trattato di Bava Metzia, ma non è il primo capitolo, inizieremo dal terzo capitolo, sceglieremo questo capitolo qui. Vedremo che tutto questo capitolo si occupa di alcuni concetti che vanno chiariti fin da ora, da subito. Cioè, la prima cosa, il concetto dello shomer. Cos'è lo shomer? Lo shomer è una parola che si sente oggi abbastanza comunemente, e lo shomer però nel nostro caso non è la guardia giurata, che il termine shomer oggi si usa spesso per questo. Shomer è una persona, è una guardia in un certo senso, ma in che senso è un guardiano? Un guardiano nel senso che il shomer ritiene un bene, un oggetto che appartiene ad un'altra persona e potrebbe avere diversi livelli di, potrebbe essere tenuto a diversi livelli di achrayut, cioè di responsabilità, in base al tipo di accordo che ha preso inizialmente con il proprietario del bene o dell'oggetto. Quindi ci sono diverse categorie di shomer, nello specifico quattro categorie che vedremo un pochino più avanti quali sono. A noi interesserà un tipo di shomer che è, al momento ci interesserà questo tipo di shomer che è shomer chinam, e cioè colui che custodisce per un altro gratuitamente, cioè gli fa un favore. Ovviamente anche lui ha una responsabilità, è tenuto a rientrare nell'accordo, e cioè di fare quel favore, di fare ciò che è normale per proteggere il bene. La domanda è: cosa succede nel momento in cui avviene qualcosa di anormale e per esempio viene rubato il bene, se questa persona è responsabile o meno. Ora vedremo che questa cosa, questa domanda qui è posta, è prevista nella Torah stessa. La Torah stessa dice qual è la halakha in un caso lineare di questo tipo. Vediamo un attimo. Il shomer che appunto chinam, cioè gratuito, lo fa gratuitamente, potrebbe accadere, come dicevo, che viene rubato l'oggetto. Lui non è pagato, di conseguenza il livello di responsabilità non è così alto. D'altra parte c'è comunque un livello di responsabilità. E allora, se lui per esempio custodisce per l'altro un animale, due contadini, uno parte e chiede all'altro di custodire, di curare per lui la sua mucca nella stalla del shomer, dello shomer. Ora, se questo lascia la stalla aperta, è chiaro che è responsabile, nonostante non è pagato, non fosse lui pagato, però comunque ha un certo livello di responsabilità e deve risarcire il danno. Ma nel caso che rientrasse lui nelle sue responsabilità, allora lì ci sono due possibilità. Ora vediamo. Vediamolo in questa prospettiva di nuovo. Tu sei il giudice al quale viene posta questa problematica. Allora, è stato rubato l'oggetto. La domanda è: non sappiamo se è stato davvero rubato. Così dice, ma forse è un ladro lui, o forse non è rientrato nelle sue responsabilità di come doveva fare per quel tipo di bene che gli è stato dato da custodire. Allora, se noi possiamo constatare che ha fatto quello che doveva fare e comunque la cosa è stata rubata, allora non deve pagare. La Torah dice: tu hai fatto un favore, sei shomer chinam, devi salvaguardare, devi essere un guardiano corretto, fare ciò che è normale fare in questi casi, ma non al di là. Certo, avresti potuto fare una supervisione maggiore del normale e forse non sarebbe accaduta e non sarebbe accaduto il furto. Ma visto che sei rientrato nella normalità, allora non sei tenuto a pagare. La domanda è: come possiamo noi giudici davvero sapere che questa è la verità? Che davvero l'ha rubata? Scusate, che davvero è stata rubata da lui e lui non ha nessuna colpa, questo shomer chinam, questo povero guardiano gratuito. Come possiamo confermare una cosa del genere? Questa è una classica regola nel Hilchot HaShomerim, cioè nelle regole che riguardano i shomerim, i custodi, e la Halakha dice così. La Torah dice, come dicevo, se noi apriamo la Torah, nel libro di Shemot, nella Parashah di Mishpatim, al capitolo 22, i versetti 6 e 7, allora troviamo scritto così. Capitolo 22, versetti 6 e 7. La Torah dice: Ki ten ish el re'ehu kesef o kelim lishmor. Se uno dovesse consegnare ad un altro, fare un deposito, di depositare presso un altro del denaro o dei utensili. La Torah fa questi due esempi, ma non si limita a questi due esempi, sono esempi, non esclusivamente questo la Torah intende dire. Questo ce lo insegna la Torah Shebealpe, la Torah orale. Ora, se dovesse consegnare e dare in deposito queste cose al prossimo, vegunav mi beita ish, e questi beni sono stati rubati dalla proprietà, dalla casa letteralmente della persona che si è assunto questa responsabilità, allora in quel caso saltiamo qualche parola, venikrav balabait ela elohim, o ela elohim possiamo dire, e cioè questo significa letteralmente il custode degli oggetti verrà a giurare dinanzi ai giudici. In questo caso la parola Elohim non è un riferimento ad Akadosh Baruch Hu, ma è un riferimento, come in altri casi nella Torah, ai giudici del Bet Din. Quindi, cosa dovrà fare? Dovrà giurare. E qui stiamo spiegando il versetto secondo la Torah Shebeal Peh, secondo come la Torah orale ha trasmesso, che è il significato del versetto, perché il versetto non dice esplicitamente la parola giuramento, dice sarà fatto avvicinare, ok? Ma fatto avvicinare per cosa? Per fare un giuramento, per dire in questo giuramento Imlo shalach yado bimelech et re'ehu, che lui non ha approfittato da roba altrui, così come è tradotto nel Pentateuco. Quindi la Torah dice, deve giurare. Perché deve giurare? Cosa guadagniamo dal giuramento? Se è pronto a rubare, forse è pronto anche a giurare in falso. Ecco, è questo proprio il punto, che non necessariamente è così. Sicuramente in certe epoche della nostra storia non è così. Cioè la persona forse ha bisogno, in qualche maniera la sua debolezza si è lasciato andare per fare un furto, ma non si lascerebbe andare per invocare il nome di Dio davanti ai giudici con il Sefer Torah in mano e giurare il nome di HaKadosh Baruch Hu in maniera esplicita, che non lo ha fatto. Quindi la Torah dice, non abbiamo modo per capire, noi giudici, non abbiamo modo per capire se è vero o no, allora lo facciamo giurare. Se lui giura, se lui fa questo giuramento davanti al Bet Din, noi consideriamo vera la sua affermazione, che non ha rubato e quindi se ne va a casa. La perdita è stata subita da chi gli ha dato l'oggetto, il bene da custodire, e purtroppo l'ha fatto in maniera, ha voluto risparmiare, l'ha voluto fare come favore, non è voluto andare a pagare per una protezione vera e propria, e di conseguenza c'è il rischio. E lui deve mangiarsi questo rischio. Bene, questa perdita in questo caso. Ok, il Rambam descrive, quando spiega il giuramento come funziona, che chi giura tiene in mano il Sefer Torah e deve essere in piedi davanti ai giudici e dire Harreini nishba b'Hashem Elokei Israel, io giuro in nome del Signore Dio di Israel che non ho in mano nulla, in questo caso il giuramento è, non ho in mano nulla che appartiene a questo signore qui, che fa la, che accusa, diciamo, il furto. Questo giuramento si chiama nel linguaggio alachico Shevuat Hashomerim, cioè il giuramento del, l'eventuale giuramento del Shomer, Shomerim plurale. Ma il Shomer chiaramente ha anche un'altra possibilità. Potrebbe dire, io preferisco pagare, io sono sempre onesto e non ho rubato questo bene, ma preferisco pagare. Perché dovrebbe preferire pagare? Allora forse non è come ho detto, forse non è onesto e di fatto l'ha rubato, ma davanti al giuramento dice ok, mi arrendo, pago il valore del bene che è stato, che diciamo non c'è più, ok? Ma potrebbe anche essere che non vuole giurare pur non avendo rubato, proprio per l'aspetto moralmente, spiritualmente importante di questo giuramento, dove uno invoca il nome di Hashem, ed è una cosa che vorrebbe evitare, anche se fatto per una verità, ma comunque per questioni mondane, per questioni profane di vita normale vissuta. E quindi potrebbe decidere di non fare il giuramento. Nel caso decidesse di non fare il giuramento, cosa fa? Paga. Bene, quindi dobbiamo, la prima cosa che dobbiamo sapere nella Mishnah è l'esistenza di questa categoria di Shomer che si chiama Shomer Chinam, quello che lo fa gratuitamente, e dell'idea della Shevuata Shomerim, del giuramento che eventualmente si potrebbe far fare. Un altro concetto che dobbiamo spiegare prima di procedere è quello del Tashlumei Kefel e Tashlumei Arba'a ve Chamisha. E qual è questo concetto? Qualora una persona dovesse effettuare un furto e poi viene alla luce la situazione, viene portata la persona davanti al Bet Din, qual è la conseguenza? Chiaramente deve risarcire il bene stesso o il valore del del bene che ha rubato. Questo è chiaro. Ma la Torah dice, sempre nello stesso capitolo che abbiamo letto prima, anche alla fine dello stesso versetto, il versetto 6 del capitolo 22 di Shemot, Parashah Mishpatim, la Torah dice, Im yimatze aganav yishalem shenayim. Se il ladro fosse preso, dovrà pagare il doppio. Perché il doppio? La Torah, oltre al risarcimento, gli fa pagare una sanzione dello stesso valore del risarcimento. In questa maniera viene fatto mancare a lui lo stesso valore che se avesse avuto successo nel furto avrebbe fatto mancare a chi ha subito il furto. Quindi non solo risarcisce il bene stesso, appunto, o il valore della cosa stessa, ma anche lo stesso valore viene preso da lui e dato a chi ha subito prima da lui il furto. In casi speciali, che ora farò presente, la sanzione è ancora più elevata, che non è solo il doppio, ma addirittura 4 o 5 volte tanto. Nel capitolo precedente a questo, il 21, nel versetto 37, è scritto che qualora la persona dovesse rubare, chi gnov ish shor o se ruba una bestia grande, grossa come un toro o una mucca, oppure una bestia minuta come un se, una pecorina o un capretto, e poi non solo lo ruba, ma utevachò o mecharò e lo vende oppure lo macella, quindi non è più possibile ridare l'animale, la bestia stessa che è stata rubata. Allora in questo caso, nel caso della bestia grande, deve pagare 5 volte tanto la sanzione, e nel caso di quella piccola, arba zon tachatase, 4 volte quanto. Ora noi non entriamo, uno può già capire le motivazioni del frutto che può avere dalla bestia, eccetera, però ora non entriamo nelle motivazioni dietro a questa mitzvah, questa regola qui, ma abbiamo stabilito che esistono questi concetti. Lo shomer chinam, la shevuah tashomerim e il pagamento della sanzione che si chiama kefel, cioè il doppio, e le sanzioni ancora più grandi per quei casi di cui abbiamo parlato, che sono arba'a v'chamisha, e cioè 4 volte o 5 volte quanto. Ora leggiamo la Mishnah stessa. Chi vuole seguire nel libro può aprire il trattato Bava Metzia nel capitolo 3 e la prima Mishnah. Terzo capitolo di Bava Metzia, il capitolo, solo per dare un po' la cartina della Mishnah, come funziona. Chiaro che nel far riferimento a questo capitolo uno dice il terzo capitolo del trattato Bava Metzia, che si trova all'interno dell'ordine Nezikin, come abbiamo detto prima. Ma c'è anche un altro modo che tradizionalmente ci si riferisce ai capitoli della Mishnah, ed è normalmente la prima o le prime parole del capitolo. Uno potrebbe dire, io sto studiando, ora mi sto occupando di Hamafkid, che è la prima parola di questo capitolo che ora studieremo. Oppure uno potrebbe dire, sto studiando in questo periodo Yetziot HaShabbat, per esempio, che è il primo capitolo del trattato di Shabbat. Cioè si usa spesso nella letteratura e anche nel parlare tradizionale, si usa anche il nome del capitolo, non solo il numero. Ora la Mishnah dice, Hamafkid etzel chavero behema o kelim, se una persona dovesse depositare, dare a custodire, affidare al prossimo un animale o degli oggetti, venignevu e sono stati rubati, o she avedu o che sono stati smarriti, quindi entrambe le cose potrebbero funzionare nel caso in cui andiamo a vedere. Noi però parleremo più soprattutto dell'esempio del furto, perché rientrerà nel seguito della Mishnah e nei concetti che vogliamo spiegare, però sappiamo che la cosa esiste anche per l'oggetto smarrito. Quindi, se fossero rubati o smarriti, la Mishnah dice Shilem, se la persona decide di voler pagare velo razzale ishava e non voleva lo shomer fare il giuramento, perché come abbiamo visto avrebbe potuto, se volesse, avrebbe potuto fare, se avesse voluto avrebbe potuto fare il giuramento, nel caso in cui, e la Mishnah lo specifica, che può fare un giuramento, ora lo specificherà, Sheharei Ameru, poiché hanno detto, spesso vedremo questo Ameru, hanno detto, chi è che ha detto? I Chachamim, la Torah orale ci ha trasmesso, che cosa? Hanno detto che Shomer Chinam Nishba Veyotze, che è colui che è un custode gratuito, lo Shomer gratuito, Nishba potrebbe giurare Veyotze e uscirne fuori, esce fuori dal Beit Din, uomo libero, tra virgolette, non ha altri doveri, però lui ha voluto pagare, ok? Perché parliamo del caso in cui ha voluto pagare? Perché appunto se avesse giurato se ne va, se invece ha deciso di pagare e poi cambia qualcosa nella storia, cosa cambia? Dice la Mishnah, Nimtza Haganav, qualora fosse preso, trovato il ladro, ovviamente il ladro è tenuto a pagare un doppio pagamento, come abbiamo detto, con la sanzione diventa doppio, Meshalem paga Tashlumei Kefel, il pagamento del Kefel, cioè il doppio, la sanzione doppia. Se si trattasse appunto dell'animale e lui l'avesse venduto o shachtato, Tavahu Machar, macellato o venduto, Meshalem Tashlumei Arbava Hamisha, il ladro è tenuto a pagare, che cosa? 4 o 5 volte quanto, come abbiamo visto. Ora, la domanda è, dice la Mishnah, lemi hu meshalem, chi è che deve essere risarcito dal ladro? E la Mishnah risponde, lemi shehu pikadon etzlo, deve risarcire la persona che ha pagato, che non ha giurato, che ha pagato, quindi ha risarcito già il proprietario originale. Ora, questo pagamento e la sanzione che deriva dal ladro va nelle tasche dello shomer, colui che ha in mano il picadon, colui che aveva in mano l'oggetto depositato. Ora traduciamo e poi approfondiamo. La Mishnah prosegue e dice, se lo shomer avesse deciso di prendere, di proseguire sull'altro binario, e cioè l'altra possibilità dello shomer qual era? Quella di fare il giuramento e di non pagare, se avesse fatto questo, Nishba, se ha giurato, velo razzale shalem, e non ha voluto pagare, perché abbiamo detto avrebbe potuto, no? Però cosa succede ora? Nimtza Haganav, se fosse stato preso, trovato il ladro, il Ganav chiaramente meshalem tashlumei kefel, il Ganav paga la sanzione doppia. Tavahu Machar, nel caso avesse macellato o venduto, Meshalem Tashlumei Arba V'Chamisha, paga 4 o 5 volte quanto. Ma qui la domanda cambia la risposta alla domanda finale. Lemiu Meshalem, a chi paga il ladro? Chi è che viene risarcito in questo caso? Nel caso appunto in cui lo shomer aveva giurato e non aveva pagato? Le bala picadon, al proprietario originale del bene, della cosa depositata, custodita. Ovviamente, ognuno può già capire un po' la dinamica di cui stiamo parlando. Ora, nella nostra Mishnah, la Mishnah ci presenta con un dilemma alachico e ci offre la soluzione, ci offre la risposta. Perché dico questo? Perché le Mishnayot potrebbero presentare dei problemi o descrivere delle situazioni in maniere diverse, non sempre in questa maniera che noi abbiamo visto qui. La Mishnah che noi abbiamo visto usa questa formula qui, cioè un dilemma che si presenta davanti al Beit Din e come il Beit Din dovrebbe trattare la situazione. Allora, approfondendo, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un Shomer Chinam, di un guardiano che lo fa gratuitamente, quindi è tenuto ad essere responsabile, a salvaguardare, a proteggere il bene che gli è stato dato in... che è stato depositato presso di lui, che lui deve custodire, che in ebraico si chiama pikkadon, cioè l'oggetto da custodire, che è stato depositato. Ma è successo qualcosa di anormale e l'oggetto non c'è più. Ok? Quindi abbiamo detto due possibilità, stiamo parlando: rubato o smarrito. Se appunto siamo sicuri che lui è rientrato nelle sue responsabilità nel cercare di custodire l'oggetto e non è riuscito a proteggerlo, teoricamente non è responsabile, ma ognuno potrebbe dirlo, quindi qualcosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? La Torah dice c'è il giuramento, ok? E lui ha la scelta, tu puoi giurare ed essere, diciamo, esente da qualsiasi risarcimento, oppure potresti pagare. Ora la Mishnah dice, caso in cui la persona ha deciso di fare che cosa? Di pagare. Ha detto, io vorrei pagare e non vorrei fare il giuramento. E ora si trova il ladro. E il ladro paga la sanzione. A chi va la sanzione? Non al proprietario originale, ma alla persona che si è assunta la responsabilità e che ha anche risposto a questa responsabilità facendo quel risarcimento, nonostante fosse davvero stata rubata la bestia o l'oggetto che sia stato, allora lui ritiene anche il diritto che riterrebbe in caso normale il proprietario. Lui è come se rientrasse al posto del proprietario per questo contesto specifico qui, e a lui va risarcito non solamente quello che lui ha tolto dalla propria tasca per risarcire prima il proprietario, ma anche la sanzione. Cioè chi subisce la perdita è quello che prende anche la sanzione. In questo caso il proprietario non ha subito nessuna perdita di fatto, perché è stato già risarcito dal Shomer Chinam. Invece il Shomer Chinam ha subito la perdita e lui sarà il destinatario dei fondi che arriveranno per la perdita stessa e per la sanzione. La Gemara approfondisce le motivazioni di questa sentenza della Mishnah, ma appunto arriva a questa conclusione. Rashi appunto dice nella Gemara, visto che lui ha pagato, è come se avesse con questo pagamento acquistato i diritti per eventuali altri pagamenti per lo stesso problema, per lo stesso oggetto, per la stessa situazione. Questo nel caso in cui lo Shomer decidesse di pagare, ritiene anche il diritto delle eventuali sanzioni che arriveranno. Nel caso invece che il Shomer decidesse di non pagare ma di giurare, quindi di uscire dal problema senza però subire qualsiasi perdita, allora la perdita è stata subita dal proprietario. La Mishnah ha detto, se si trovasse il Ganav, il ladro, paga il Kefel, la sanzione doppia, oppure Arbaav Hamishai, cioè la sanzione 4 volte o 5 volte quanto, ma a chi spetta tutto? Non allo Shomer. Lo Shomer è fuori dalla storia, non ha subito nessuna perdita. Spetta al proprietario originale. Ora, per ricapitolare, il caso della Mishnah è che una persona fa custodire, deposita presso un'altra, affida presso un'altra persona un oggetto o un animale. L'animale o l'oggetto sono rubati o vengono rubati o persi. Ora, nel caso che fossero rubati, se la persona decide, lo Shomer decide di entrare nel suo diritto del Shevuà, cioè del giuramento, allora esce fuori dalla situazione e non deve pagare. Ricordiamoci che la sua responsabilità non è così elevata, il livello di responsabilità che si richiede da lui. E se eventualmente poi si trovasse il ladro e lo si facesse pagare non solo il bene stesso, ma anche la sanzione aggiuntiva, tutto questo entra nelle tasche di chi? Del proprietario originale che ha subito la perdita. Nel caso in cui invece lui decide di pagare e non vuole fare il giuramento, allora in quel caso lui subisce una perdita e l'eventuale ritrovamento del ladro, eventuali pagamenti, risarcimenti e sanzioni, tutte vanno verso la tasca del Shomer. Quindi in questa Mishnah abbiamo studiato il concetto dello Shomer Chinam, il concetto della Shevuat HaShomerim, il concetto di Tashlumei Kefel, pagamento doppio, sanzione, e Tashlumei Arba'ah V'Chamishah, la seconda possibilità di sanzione nel caso fosse venduto o macellato il bene animale, e abbiamo approfondito un po' l'equilibrio che esiste tra il livello di responsabilità e il livello che ci si aspetta da un tipo di Shomer e quindi il livello di colpevolezza, se vogliamo, che possiamo applicare a quel Shomer. Se Dio vuole, nella prossima lezione procediamo.